in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo cosa ci propongono i quotidiani questa mattina in edicola, facendo un'eccezione a quelle che sono magari le abitudini della rassegna stampa. Non partiamo dai quotidiani che riportano naturalmente con grande enfasi le notizie, soprattutto ricadute del decreto legge varato venerdì, quindi cambiamenti in arrivo per gli statali, per le imprese e quant'altro, ma dicevo, facciamo un'eccezione, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, così stiamo sulla notizia della notte più che della notizia del giorno, cioè la vittoria, come penso ormai sappiate benissimo, dell'Italia questa notte sull'Inghilterra per 2-1. Balo e vai è il titolo della Gazzetta Sportiva, è subito Grande Italia, bye bye Inghilterra, Super Mario firma il gol decisivo, lo dedica alla futura moglie Fanny, gara durissima, scrive la Gazzetta, apre Marchisio, replica Sturridge e alla fine vince il nostro possesso, colpiamo due pali, brillano anche Darmian, Candreva, Sirigu e Pirlo. Il commento della Gazzetta dello Sport, il titolo dell'editoriale è affidato a Luigi Garlando, vi do qualche indicazione delle pagelle, naturalmente poi all'interno della Gazzetta Sportiva trovate tutta una serie di commenti e considerazioni per quanto riguarda la partita che si è giocata questa notte. Viene giudicato il migliore appunto Mario Balotelli, a cui la Gazzetta assegna un 7,5, il peggiore dei nostri secondo appunto i giudizi del quotidiano sportivo è Paletta con 4,5, qui tocca un 4,5, quasi appunto pesante il commento della pagella, dice Paletta verde, nel senso che gli attaccanti inglesi vanno come treni e lui li fa passare tutti. Ora c'è anche un po' di preoccupazione per quanto riguarda il nostro portiere titolare, appunto ieri ha giocato bene Sirigu, ma Buffon, che è il titolare, caviglia KO, scrive la Gazzetta, è a rischio il suo mondiale, così il titolo della Gazzetta Sportiva, ma è ottimista, la distorsione da una zappata, cioè aver preso la terra appunto nel calciare una punizione, distorsione con infiammazione del tendine, Gigi promette di tornare subito, oggi per lui nuovi esami. Bene, questa è la Gazzetta Sportiva, anche per così segnare questa nottata particolare che ci ha visti in molti davanti ai televisori per seguire la partita degli italiani. Veniamo invece a tutt'altro genere di notizie che troviamo oggi in evidenza sui giornali. Cominciamo da Sole 24 Ore. Vi dicevo, il decreto legge e le misure varate dal governo venerdì nell'ultimo Consiglio dei Ministri che si è svolto appunto due giorni fa, dilagano abbastanza nei loro vari contenuti su diversi quotidiani questa mattina. Il Sole 24 Ore punta sugli aspetti che riguardano più da vicino le attività economiche, capitale, borsa e bond, le novità per le imprese, cambia il codice civile, ci sono meno vincoli sull'emissione di azioni e obbligazioni. Questi sono aspetti molto importanti varati per agevolare, per reagire in qualche modo alla crisi del credito. Vengono raccontati, vengono spiegati oggi in dettaglio sul Sole 24 Ore, dopo appunto il numero di ieri in cui avete potuto trovare già alcune prime analisi rispetto a quanto approvato venerdì. Ci sono meno limiti ai bond, si ricorda già dalla prima pagina, il decreto legge cancella i limiti che sono riferiti attualmente alla consistenza del capitale sociale per l'emissione delle obbligazioni. Viene anche eliminato il divieto alla distribuzione di riserve e alla riduzione del capitale sociale per le società che ricorrono ai bond. E poi viene cancellato anche il divieto all'introduzione di azioni con voto plurimo, quindi diventa possibile emettere titoli che attribuiscono più di un voto al titolare di queste azioni. Diventa più facile costituire una società per azioni perché Il valore del capitale sociale scende da 120.000 a 50.000 euro. E poi una nuova definizione per le piccole e medie imprese basata sul fatturato e capitalizzazione. Vengono stabiliti nuovi limiti per le partecipazioni incrociate. Il tutto, dicevo, tiene un po' il senso di voler dare strumenti alternativi per la raccolta dei fondi e quindi il superamento del blocco del credito che ormai abbiamo imparato a chiamare credit crunch utilizzando appunto i termini anglosassoni. Intervista di Fabrizio Forché, il vice direttore del Sole 24 Ore, al ministro Delrio che interviene a spiegare in questa intervista il senso del commissariamento possibile per le aziende che vengono coinvolte in indagini anticorruzione. Del Rio dice commissario solo per l'attività sul cantiere e all'interno poi si spiega appunto che alla domanda di Forché che dice ma non è facile distinguere l'attività dell'impresa sul cantiere e il resto dell'impresa, non rischiate un cortocircuito con effetti dannosi per tutti? Del Rio dice lo sappiamo, infatti in queste ore stiamo mettendo a punto anche le virgole di questa norma. Per noi però l'interpretazione è chiara, è quella data da Renzi, se insorgeranno problemi nella sua applicazione potremmo sempre intervenire con una messa a punto. L'interpretazione è appunto quella che abbiamo sentito dal Presidente del Consiglio, viene ribadita da Delrio in questa intervista questa mattina sul Sole 24 Ore, intervista rilasciata a Fabrizio Forché. La continuità dei lavori non deve essere messa in discussione. Questo è quello che conta, la norma serve a questo. Più all'interno, poi, sempre sulle 24 ore di questa mattina, una serie di pagine che appunto approfondiscono il decreto legge intitolato a semplificazioni e crescita. Le società di cui vi riferivo sono già spiegate già nella nostra prima pagina con la caduta di alcuni vincoli su azioni e obbligazioni e poi le misure di incentivazione con la ACE, l'incentivo per capitalizzare, il bonus per i macchinari e gli sconti, i tagli dei costi per la bolletta elettrica. Pubblica amministrazione con i pensionamenti per 60.000 persone previsti in 3 anni, ci torneremo perché altri giornali danno poi evidenza proprio a questa parte del pacchetto varato venerdì. Il processo digitale, il processo telematico, anche qui argomento molto pressante perché il 30 giugno è previsto l'avvio appunto della telematizzazione del processo civile, è un tentativo di curare il grande malato italiano, appunto quello della giustizia civile, che vede cause lunghissime e di fatto si traduce insomma in una impossibilità di ottenere giustizia, di veder valere i propri diritti in ambito civile. E poi un ritratto di Rossella Orlandi, anche qui diversi giornali tornano sulle questioni fiscali e Rossella Orlandi è il successore di Attilio Befera alla guida dell'Agenzia delle Entrate, alla sua possibile strategia che il Sole 24 Ore presenta come improntata a legalità e dialogo, e alla sua possibile strategia è dedicata appunto una pagina sul Sole 24 Ore di oggi. Anche altri giornali si concentrano su questa nomina, poi i cantieri, gli appalti. E chiudiamo questa carrellata sul Sole 24 Ore con una misura che non c'entra invece nulla con quanto ha deciso il governo venerdì, parliamo infatti dell'acconto Tasi. Tasi e Imu, lo avete sentito ricordare anche nel giornale radio che ha preceduto questa rassegna stampa. Domani, ultimo giorno per il pagamento dell'acconto Imu e della Tasi. Le regole sono quanto mai articolate perché appunto i comuni hanno avuto la possibilità di intervenire con delibere, alcuni lo hanno fatto, altri no, insomma, la situazione non è assolutamente semplice. Un riassunto anche dei controlli dell'ultima ora. Oggi sul Sole 24 Ore, nella pagina di norme e tributi, in ordine sparso all'acconto Tasi, con anche delle schede che rammentano gli aspetti ai quali prestare attenzione per cercare di non sbagliare in vista appunto del pagamento di domani. E noi non sbagliamo sicuramente, dando la linea a qualche istante di pubblicità e poi soprattutto alle previsioni del tempo. In primo piano. Ancora buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla lettura dei giornali di oggi. Diamo conto, come vi dicevo, delle questioni soprattutto derivanti dall'approvazione del decreto legge di venerdì scorso e del disegno di legge, misure che sono destinate a più settori, a più ambiti della nostra vita economica e del nostro Stato, quindi con misure per la pubblica amministrazione e anche con misure per le imprese. Abbiamo cominciato dal Sole 24 Ore, vediamo invece da Il Messaggero, che è un altro dei giornali che dà spazio alla ricaduta di queste misure. Statali in uscita, in 4 anni liberiamo 60.000 posti, è il rimando della prima pagina del Messaggero per una intervista al ministro Madia. La PA digitale, dice il ministro, ha subito bisogno di nuove professionalità. Il titolo principale del Quotidiano di Roma è dedicato alla giustizia, la svolta di Renzi, dice il Messaggero, responsabilità dei giudici con corsia preferenziale in caso di dolo, più garanzie per la difesa. Il premier che annuncia faremo riforme anche non gradite alle toghe, poi sferza il PD, denunciate chi ruba. Dall'assemblea del PD decide di dare il suo titolo principale alla Repubblica. PD e corruzione, Renzi chissà vada dai PM. E poi sulla vicenda Mineo, appunto, il dissidente, non caccio nessuno, dice Renzi, basta ricatti. Orfini eletto presidente, lo avete ascoltato anche nel giornale radio, e sull'Expo parla Sala, ho sbagliato dicendo troppi sì. Questa tra le misure che sono state decise c'è anche un tentativo appunto di intervenire sugli appalti. La Repubblica ritorna su questa vicenda con una inchiesta firmata da Federico Fubini e Roberto Mania. Stato sprecone, stampanti e scrivanie, 30 miliardi da risparmiare, annuncia la prima pagina. All'interno poi si legge appunto il grande spreco di Stato tra stampanti e scrivanie, 30 miliardi da risparmiare. Oggi ci sono 32.000 stazioni appaltanti, potrebbero ridursi a 40, da 32.000 a 40, avete capito bene. È un tema che peraltro i lettori del Sole 24 Ore conoscono molto bene, perché ancora negli ultimi giorni, con gli interventi, anche le analisi firmate da, ad esempio, da Giorgio Santilli e anche da altri colleghi, si era appunto tornati a segnalare come la difformità, la quantità estrema delle stazioni appaltanti, cioè delle possibilità di decidere acquisti da parte degli uffici pubblici, non riesca a garantire ovviamente un controllo, è facile comprenderlo, un controllo sulle spese. Infatti una tabellina che accompagna questa inchiesta dice, segnala appunto le differenze di prezzo nella pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi, sono differenze riferite al 2013. Si coglie ad esempio che per una sedia il prezzo in convenzione sarebbe di poco superiore ai 78 euro, però fuori convenzione se ne pagano 90, e così via, appunto, fino ad arrivare a un personal computer che secondo il prezzo in convenzione è a 331 euro, e fuori convenzione però Consip si sale a 587 euro, insomma vicini al raddoppio. Per Repubblica, così come per molti altri giornali, grandi foto notizia in prima pagina che servono appunto a illustrare la vittoria dell'Italia questa notte sull'Inghilterra. Ne abbiamo parlato dando spazio proprio alla Gazzetta Sportiva in apertura di questa rassegna stampa. Vediamo invece, torniamo anzi meglio alle vicende legate alle tasse, perché il Corriere della Sera decide di dare il suo titolo principale alla scadenza di domani, Tasi i calcoli per non sbagliare, domani la scadenza anche per l'IMU, gli ultimi controlli appunto che avevamo segnalato anche dal Sole 24 Ore, il groviglio delle tasse sulla casa, così scrive il Corriere della Sera. E poi invece Lega, nella stessa titolazione, anche l'elemento di reazione alle misure decise dal governo per la pubblica amministrazione, permessi sindacali dimezzati, l'ira di CGIL, CISL e UIL. Dalla prima pagina del Corriere della Sera cogliamo però anche uno spunto per la vicenda dei migranti. Si rovesciano i gommoni carichi di migranti, l'Europa resta a guardare. Libia, Lampedusa, 10 morti, decine di dispersi. E Alfano, il ministro dell'Interno, che ha detto l'Italia non può farsi carico, ha ripetuto per l'ennesima volta, l'Italia non può farsi carico del disastro creato in Libia dagli altri paesi occidentali. Quei profughi che nessuno vuole identificare, il servizio di Alessandra Coppola. Sulla vicenda poi dei profughi vi segnalo La Stampa, perché il quotidiano di Torino già ieri aveva dedicato le sue primissime pagine alla particolare situazione che si sta creando nella stazione centrale di Milano, la stazione ferroviaria di Milano, dove vengono di fatto alloggiati decine, anche centinaia a volte, di migranti, di profughi siriani che stanno cercando di transitare verso il nord. Non ci sono più disponibilità da parte del comune, appunto, per poterli alloggiare tutti in modo più decoroso, e quindi vengono appoggiati per il momento a questo, alla stazione centrale. Insomma, dormono in stazione, per dirla fuori da qualsiasi eufemismo. E ci torna, appunto, torna su questa vicenda proprio La Stampa, titolando ovviamente sulla tragedia di ieri: inferno in mare, decine di morti e dispersi, si rovescia un barcone al largo della Libia. Alfano, che ha minacciato stop all'operazione Mare Nostrum se l'Europa continua a ignorarci. E il caso dei siriani nella stazione centrale: 3 giorni e sarà emergenza. I volontari spiegano che gli arrivi non si fermano, e purtroppo invece la disponibilità degli alloggi, degli aiuti per queste persone che fuggono da un paese in guerra, ecco, quella sì è limitata, e il comune sta cercando appunto di fare il possibile. Lo ricorda La Stampa, che però nella sua prima pagina parla di un altro aspetto delle riforme. Piano scuola al via è il titolo principale del quotidiano torinese. Pronto 1 miliardo per 20.000 cantieri. All'interno poi, appunto, si legge come c'è questa disponibilità di fondi per aprire 20.000 cantieri, che partiranno il 1° di luglio, interesseranno complessivamente istituti per 4 milioni di studenti, e tra il 2015 e il 2020 si attendono altri 4 miliardi. Ah, un dettaglio che non è tanto un dettaglio, però, per quanto riguarda le misure approvate dal governo, all'ultimo momento è stato stralciato, è saltato, insomma, non è stato approvato il pacchetto veicoli, che prevedeva, i nostri ascoltatori lo ricorderanno, ne abbiamo segnalato in diverse occasioni, prevedeva appunto l'aumento del bollo auto in via transitoria, il passaggio dall'imposta provinciale di trascrizione all'imposta regionale della immatricolazione. Nulla di fatto, lo ricorda tra gli altri giornali anche La Stampa, per questo possibile aumento del bollo auto e tutte le altre misure connesse. Si parlava anche di eliminazione del superbollo per le auto di lusso. Tutto questo è stato però posticipato perché il pacchetto è stato appunto stralciato. Potrebbe però essere ripresentato già al prossimo Consiglio dei Ministri, quindi nella settimana che si apre domani vedremo se questo pacchetto di norme terrà ancora banco e tornerà appunto all'attenzione del governo, cambiando, modificando le nostre abitudini erariali per quanto riguarda il possesso degli immobili. La cambiamo completamente argomento, nel senso che dalla questione dei migranti, dalla tragedia dei migranti avvenuta anche ieri, passiamo anche ad Avvenire, che ricorda appunto come si continui a morire in mare, una grande fotonotizia di Avvenire dedicata ai naufragi ancora dei migranti ancora ieri. E poi la complicata, ma forse complicata a dire poco, situazione complessivamente in Iraq, crisi dilagante, c'è in campo l'Iran, Teheran chiama gli USA, invia 2.000 volontari. E la questione viene riassunta molto bene da Avvenire e anche sul Corriere della Sera, nelle pagine interne, dove appunto si spiega cosa sta succedendo in Iraq. Teheran scende in campo in Iraq, l'Iran appunto scende in campo, pronti a collaborare con gli USA. Una svolta davvero epocale per chi ricorda le dichiarazioni appunto contro il grande Satana, così era una delle definizioni che venivano riservate agli Stati Uniti. Adesso però il momento drammatico con questa escalation del terrore, così come scrive il quotidiano Avvenire, fanno venire meno questo tipo di giudizi e si passa a una richiesta invece di aiuti. Il presidente Rouhani è pronto ad aiutare Maliki, lancia un segnale globale alla Casa Bianca, dicendo anche che è possibile un accordo sul programma nucleare entro il 20 luglio. Gli Stati Uniti hanno mandato un'altra portaerei nel Golfo per avere più opzioni. Ci sono anche polemiche in America sull'inerzia di Obama, che appunto avrebbe preferito, da quello si è capito dagli ultimi discorsi, lasciare la questione irachena agli iracheni senza ulteriori impegni militari da parte del governo degli Stati Uniti, dei militari degli Stati Uniti. La questione appunto della crisi in Iraq, raccontata molto bene sia da Avvenire sia anche dal Corriere della Sera oggi, nelle pagine interne, non con un richiamo nella prima pagina, ma con una utile scheda che ricorda anche, che spiega da dove nasce questo conflitto tra sciiti e sunniti. Noi ora ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo le informazioni sul traffico. In primo piano. Bentornati, bentornati a questa ultima tranche, ultima parte della nostra rassegna stampa, e ancora una buona domenica da Mauro Meazza. Grazie a Carmelo Lauricella questa mattina in regia, l'uomo che rende possibile tutto questo. Molti giornali tornano sulla vicenda degli scandali, perché appunto gli scandali relativi specialmente al Mose, a quello che sta emergendo appunto nell'area di Venezia, anche perché ieri appunto, come avete sentito, Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, è tornato a tuonare, a chiedere comportamenti netti anche ai suoi colleghi di partito nei confronti dei corrotti. Scandali: Renzi sferza il PD, è il titolo ad esempio del Giorno, quotidiano nazionale. Il segretario ha muso duro in assemblea: chi sa parli e chi ha sbagliato paghi, le parole di Renzi. E poi un dossier proprio del quotidiano nazionale sulle tangenti Mose, le democratici e COP nel mirino dei PM. Su questo aspetto un titolo del Fatto Quotidiano: Mose, ecco i soldi per Enrico Letta, traversamento di 20.000 euro dal consorzio Venezia Nuova alla fondazione dell'ex premier. Questo quanto emergerebbe appunto dalle carte. Poi il racconto nelle pagine interne a cura di Antonio Massari e Davide Vecchi si riferisce appunto di tre bonifici da 20.000 euro ciascuno, che sarebbero in odore di finanziamento illecito. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano oggi in edicola. Che poi, appunto, per restare alle questioni che già affrontavamo nella parte precedente di questa trasmissione, dedica il suo secondo titolo alla vicenda dei migranti. Canale di Sicilia, un mare di cadaveri, 10 corpi recuperati, il rovesciamento di uno dei gommoni, gommone carretta lo chiama nel suo titolo il Fatto Quotidiano, con centinaia di immigrati a bordo, si rovescia 40 miglia a nord della Libia, i dispersi sarebbero una cinquantina. E molti giornali, cambiamo davvero argomento, dedicano poi spazio in prima pagina e con dei racconti, conti delle ricostruzioni nelle pagine interne alla vicenda di Vallanzasca. Da mito della mala, rapinatore in mutande, è quello che scrive il Fatto Quotidiano, ma anche altri giornali, come ad esempio il Corriere della Sera, decidono di dare spazio già in prima pagina alla vicenda di Vallanzasca. E no, scusate, non il Corriere della Sera, ma il Secolo XIX, chiedo scusa. Il bel René finisce in mutande, questo era appunto il soprannome di Vallanzasca, il bandito Vallanzasca preso per furto in un supermercato. Appunto, il furto che sarebbe un taccheggio praticamente, riferito a un paio di mutande, e poi è stato fermato appunto appunto dalla guardia che era di sorveglianza, e da lì il ritiro delle misure premiali e così via. L'avvocato di Valanzasca, però, vi segnalo, riferisce negli articoli che appunto raccontano di questa vicenda che l'assistito, cioè Valanzasca stesso, si dichiara assolutamente non colpevole, dice di non avere sottratto nulla. Uso però il secolo XIX per darvi una segnalazione ancora di tipo economico. Prestiti, boom di chi non può pagare, è l'apertura delle pagine di economia. In un anno i crediti bancari in sofferenza sono cresciuti del 25%, lo ricorda una ricerca di un'impresa, che riprende a sua volta i dati segnalati dalla Banca d'Italia. Nell'ultimo anno le sofferenze sono ancora cresciute del 25%, sono arrivate a superare il muro dei 166 miliardi di euro. L'aumento è stato di oltre 33 miliardi. La percentuale rispetto al totale dei crediti, i crediti non restituiti sono passati dal 9 e qualcosa per cento a oltre l'11,5%, e dal 2010 a oggi le sofferenze sono più che raddoppiate. Insomma, sono dati che confermano naturalmente lo stato di crisi e anche le difficoltà poi delle banche, che certamente hanno, come dire, delle resistenze a erogare credito, ma anche perché aumentano appunto i crediti non restituiti. Allora, visto che abbiamo parlato di economia, dedichiamo un paio di minuti alle vicende del fisco, che all'economia è sempre direttamente legata, perché sia il giornale sia Libero, come sapete, testate certamente non vicine né all'attuale maggioranza né al Presidente del Consiglio, dedicano i loro titoli principali alle tasse. Il giornale scrive: nuova banda di tassatori a volte ritornano. Renzi piazza al Ministero dell'Economia la vecchia guardia dei vampiri fiscali di Visco. Il Premier mette poi KO la minoranza PD e con la minaccia, impone la sua linea con la minaccia di andare alle urne. Poi c'è spazio anche per Berlusconi, che chiede una legislatura costituente. Libero, in prima pagina di Libero. Le 10 tasse di Renzi in appena 4 mesi. Il Premier, scrive Libero, si fa bello con gli 80 euro in busta paga e ora promette il quoziente familiare, ma dietro le belle parole nasconde l'aumento dei balzelli. Dalla casa ai risparmi, dalla benzina ai passaporti, dall'IRAP ai fondi pensione. Ecco come ci ha spremuto. E poi Rossella Orlandi, la nuova Miss Fisco, ovvero colei che prenderà il posto di Attilio Befera al vertice dell'Agenzia delle Entrate. La nuova Miss Fisco mette paura, perché secondo Libero è un'ex militante dei DS, figlia, tra virgolette, di Dracula Visco. Nelle pagine interne poi Claudio Antonelli firma un ritratto che davvero non è tenero nei confronti della nuova responsabile dell'Agenzia delle Entrate. Da militante DS a Miss Fisco, la figlia di Visco fa già paura. Dopo Befera arriva Rossella Orlandi, cresciuta alla scuola dell'ex ministro. Tra gli obiettivi, lotta all'uso del contante e fusione con Equitalia. Questo è l'aspetto particolare su cui Antonelli mette l'accento. Dice: da questa nomina c'è da aspettarsi un terribile evento, ovvero la fusione di Equitalia con l'agenzia stessa, con l'Agenzia delle Entrate. Un processo pericoloso che, se dovesse andare in porto, consentirà allo Stato di fare le regole, interpretarle in sede di contenzioso e alla fine decidere i metodi di riscossione. Alla faccia, scrive Antonelli, dei rituali democratici. Non è davvero un benvenuto di quelli teneri, quello riservato sia da Libero che da Il Giornale alla nuova responsabile, colei che sarà la nuova responsabile dell'Agenzia delle Entrate. Ma a questo proposito, nei pochissimi secondi che mi restano, vi segnalo: è una donna, ha detto Renzi nell'appunto nell'annunciare la nomina. L'altra rivoluzione del Premier: alle donne le leve vere del potere. Lo scrive Il Messaggero, che ricorda appunto alcune recenti nomine, da Manzione a Palazzo Chigi alle SPA pubbliche. Le ultime nomine scrive Mario Aiello sul Messaggero, confermano il pink power, cioè insomma il potere alle donne. Il renzismo cos'è? Scrive Aiello, è una felliniana città delle donne, ma mentre il film del grande regista è onirico, la renziana città delle donne è fatta di board, di consigli di amministrazione, di aziende pubbliche colorate di pink power. Questo sul Messaggero di oggi. Bene, era l'ultima segnalazione che ho voluto darvi. Vi auguro ancora una buona domenica e lasciamo la linea a qualche messaggio pubblicitario e poi naturalmente al giornale radio. Buona domenica a tutti.